America 24 di Mario Platero. Buongiorno a tutti, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero. Wall Street ieri ha chiuso in aumento con il Nasdaq al massimo in 18 mesi. Il Nasdaq rappresentativo dei titoli tecnologici ha chiuso a quota 2358,95, ma facciamo un confronto perché ieri era il decimo anniversario in cui avevamo avuto il picco della bolla tecnologica e il Nasdaq era quota 5132,52, oltre il doppio di dove si trova adesso. In 10 anni non abbiamo recuperato, questo ci dà un'idea che forse abbiamo ancora parecchio spazio per andare avanti. You fight your way through these problems. I think you stand up for what you think is right. I think you do what you're called upon to do, and my purpose. La voce del governatore dello stato di New York, David Paterson, che guarda caso si trova anche lui incriminato dopo aver sostituito il suo predecessore con l'immagine dell'innocenza. Paterson è semiceco, è sposato con una moglie che lo adora e si sostituiva ad Elliot Spitzer, un governatore non molto amato, molto duro, ex procuratore, che improvvisamente fu travolto da uno scandalo legato alla prostituzione. Dunque, corruzione, dimissioni, scandali sessuali, abusi di potere, telefonate intimidatorie persino dallo stesso David Paterson hanno in qualche modo perseguitato lo Stato di New York, che oggi si trova in condizioni finanziarie molto difficili, talmente difficili che potrebbero arrivare a colpire anche la città. Questa voce invece è di Eric Massa, un deputato dello Stato di New York, deputato a Washington, che ha appena rassegnato un paio di giorni fa le dimissioni. Le accuse nei suoi confronti sono di molestia sessuale nei confronti di un suo dipendente, dunque accuse di omosessualità. Massa le respinge, però racconta nella registrazione che avete appena sentito un episodio in cui si trovava nelle docce del Congresso. Queste docce, dice, non avevano neanche le tende e quindi io vedevo tutti questi deputati nudi. A un certo punto mi si avvicina Rahm Emanuel, che è il capo di gabinetto del presidente Obama, il quale mi punta l'indice contro e mi dice: tu devi votare assolutamente per il nostro bilancio. Dice: io sono rimasto sbalordito e sorpreso, l'idea di dover fare un negoziato politico fra uomini nudi certamente non mi piaceva. La verità è che poi lui si è trovato davvero in difficoltà e dunque se n'è andato. Non è il solo ad aver lasciato una carica importante. Charles Rangel, pittoresco deputato di Harlem, diventato a 76 anni il presidente della commissione appropriazioni alla Camera, ha dovuto lasciare quella presidenza. Si tratta di una delle cariche più importanti perché dalla sua poltrona partivano le assegnazioni di spesa per tutti i congressmen, per tutti gli altri deputati che richiedevano spese da destinare ai loro stati, ai loro distretti elettorali. Cade a questo punto la cosiddetta banda dei quattro, il Harlem Clubhouse, dove c'erano anche Basil Paterson, il padre dell'attuale governatore, c'erano David Dinkins, l'ex sindaco che non ha mai brillato per eccellenza. Ci fu poi il caso di Joseph Bruno, che era l'ex capo della maggioranza repubblicana ad Albany, anche lui a dicembre condannato per corruzione. E Bernie Kerik, ex capo della polizia durante l'attacco dell'11 settembre, era diventato un eroe nazionale. 2 settimane fa è stato condannato a 4 anni di prigione per corruzione di nuovo. Determined to run and God bless him. I mean, I wasn't there. I only know what I read in the papers. La voce che avete sentito adesso invece è quella di David Ravitch, che è il numero 2, il vice governatore. Anche lui ha 76 anni, un uomo anziano, ma dovrebbe essere, almeno a quel che si dice, il salvatore dello Stato. Nelle condizioni in cui lo Stato si è trovato in mezzo a questa corruzione non c'è da sorprendersi che ci siano stati dei buchi straordinari. Il bilancio per l'anno prossimo avrà un disavanzo di bilancio di 9 miliardi di dollari, quello successivo addirittura di 15. La città di New York per ora non è stata toccata direttamente, ma nei prossimi anni, se non si farà qualcosa, il disavanzo salirà a 3, 4, persino 5 miliardi. miliardi di dollari. E dunque ieri Ravitch ha presentato un progetto di finanziamento per lo Stato di New York che dovrebbe rimettere in sesto le finanze. È un uomo che ha esperienza in materia perché fu sulla linea del fronte quando negli anni 70 la città si trovò sull'orlo del collasso. E infine la voce di Felix Roratin, grande banchiere con Lazar, grande amico dell'avvocato Agnelli, è intervenuto per appoggiare la candidatura di Rick Ravitch alla carica di governatore e, sorprendendo un po' tutti, di fatto ha chiesto le dimissioni di Patterson, il quale però vuole restare in carica. Una situazione difficile dunque per lo Stato di New York. E una promessa da parte di Roratin, New York non sarà sopraffatta. Alla fine, come sempre successo in passato, risorgerà dalle ceneri sempre più forte e sempre più potente. L'uomo più ricco del mondo non è più Bill Gates, è stato battuto e al secondo posto con soli 53 miliardi di dollari. Chi vince è Carlos Slim. Carlos Slim è lui, il miliardario messicano che ha un patrimonio stimato in 53,5 miliardi di dollari. Una gara testa a testa. È la prima volta dal 94 che il titolo non va a un americano in questa classifica di Forbes. Al terzo posto il solito finanziere Warren Buffett, un patrimonio da 47 miliardi di dollari. Complessivamente rispetto all'anno scorso il numero di persone con un patrimonio superiore ai 1000 miliardi di dollari è passato da 793 a 1011. Beh, pensavamo che ci fosse la recessione, che tutti diventassimo più poveri. Ebbene, non è così. Per essere fra i più ricchi ci vogliono oggi almeno 1000 miliardi di dollari. What we do, most of our investments are in our own companies. Ecco, quella che avete ascoltato è la voce di Carlos Slim, che cercava di rivelare i suoi segreti. Non soltanto di aziende si occupa, ma anche di finanza, soprattutto di titoli finanziari messicani. E gli italiani? Bene, tra gli italiani il più ricco è ancora Michele Ferrero, 28° posto, 17 miliardi di dollari di patrimonio, seguito da Leonardo Del Vecchio, che però è al 59° posto con 10,5 miliardi di dollari. Silvio Berlusconi è stato un po' in caduta verticale, si è piazzato al 74° posto con 9 miliardi di dollari. C'erano tempi in cui il suo patrimonio valeva oltre 20 miliardi di dollari. L'uomo comunque più ricco d'Europa è Bernard Arnault, il patron di LVMH, con un patrimonio di 27,5 miliardi di dollari. Quarta e quinta posizione nella classifica generale sono occupate da due indiani, Mukesh Ambani e Lakshmi Mittal, magnati di petrolio, gas, acciaierie, e Larry Ellison di Oracle è al sesto posto con 28 miliardi di dollari. Una classifica dunque sempre più internazionale, sempre più da melting pot. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive, sì, tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il nuovo sito che vi porterà sulla sponda americana. Ed arriviamo alla canzone del giorno con cui ci lasceremo, considerando la giornata in cui Forbes ci ha parlato degli uomini più ricchi del mondo. Riascoltiamo Money, cantata da Liza Minnelli e Joe Gray, tratta dal film Cabaret del 72 di Bob Fosse. Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes us go round, of that we both are sure, on being poor. Money, money, money. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.